Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Gianfranco Sviderkowski, giornalista e scrittore da 60 anni, segue le vicende del mondo religioso e del Vaticano. Ha raccontato i più grandi eventi religiosi, dall'avvicendamento di 7 pontefici al Concilio Vaticano II. Ex vice direttore dell'Osservatore Romano, ha collaborato con Papa Wojtyla alla stesura di Dono e Mistero, ha scritto una ventina di libri ed è stato sceneggiatore di 2 film su Papa Wojtyla. Oggi per la Tao Editrice ha scritto Francesco l'incendiario, un papato tra resistenza, contraddizione e riforme. Ecco Sviderkowski, è incendiario perché ha preso alla lettera le parole di Ignazio di Loyola, che il fondatore gesuiti, che ai suoi diceva andate, incendiate ogni cosa, è così? Esattamente così. Se c'è una caratteristica che ha messo in mostra in questi 4 anni è che ha seguito fedelmente Sant'Ignazio. Ma o è incendiario perché predica e vive il ritorno alla povertà? Ma soprattutto incendia nel senso che sa infiammare le persone, perché le vuole riportare al Vangelo, tutti. Ma quanto è gesuita Papa Francesco? Credo in tutto, tutto. E in che cosa si vede più che nelle altre cose? Intanto nella sua insistenza, per esempio, sul cosiddetto discernimento, che è quello fondamentale, cioè che lui giudica che non esiste una morale per tutti, ma che deve essere il caso per caso, come è venuto per i divorziati e gli sposati. E poi anche, forse anche nel tipo di governo che fa abbastanza, che è arrivato anche ad avere un certo forma di autorità negli ultimi tempi, proprio perché si sente isolato. Senti, Svider, essere gesuita e contemporaneamente latinoamericana è una miscela esplosiva per l'Occidente. È una miscela non solo esplosiva, ma più che altro non capita. Mi ricordo sempre il cardinale Scholar, arcivescovo di Milano, che diceva come noi non conoscessimo Francesco proprio per il fatto che non conoscevamo le sue radici, latinoamericane, ed essere il fatto di essere gesuita. Gesuita latinoamericana insieme, pensate, un latinoamericano, quindi uomo del sud, attento ai problemi, alle periferie, e gesuita che procede secondo processi, secondo un certo ritmo di vita. Intanto Francesco ha costretto l'ex presidente americano Obama ad andare a Cuba a fare pace con Castro. È stata la sua grande vittoria in America Latina? Più che costretto, direi che questo è stato l'inizio. L'ha riconosciuto Obama. L'ha riconosciuto, sì, perché loro si erano già messi d'accordo sotto traccia, però non c'era nessuno che potesse dare l'annuncio, avevano paura rispettivamente delle opposizioni interne. E devo dire che qui comincia la leadership mondiale di Francesco, il quale non pensava assolutamente a un tipo di intervento politico anche in questa maniera, e pian piano è partito. Lo è diventato. Ecco, Sviderkowski, scegliere Cuba per incontrare il capo della Chiesa ortodossa è il segno di una visione geopolitica nuova di Francesco? Francesco ha una visione geopolitica sicuramente, una visione geopolitica che proprio per l'immediatezza che lui ha, la concretezza evangelica, riesce a superare i vecchi schemi della geopolitica. In questo caso qui invece lui, pur di incontrarsi con il patriarca, l'avrebbe incontrato dovunque, ed è tutto ha deciso, lui forse si è un po' pentito anche, in un posto credo che non era giusto per due uomini di chiesa che si incontravano nell'aridità anche come scenario di un aeroporto. La Russia ortodossa di Putin però è più affine a Francesco dell'Occidente capitalistico filoamericano? Beh, nel senso che c'ha questo fondamento religioso, c'ha questo principio religioso. Certo, forse quella è una chiesa sorella, quindi può andare bene a Francesco, mentre a Francesco è rimasto un po' dentro della sua antipatia anti-Yankee di una volta. Ecco. Stalin si chiedeva quante legioni avesse il Papa. Oggi si può dire che dietro a Francesco c'è un continente, cioè l'America Latina? Beh, non è soltanto l'America Latina. No, lui, ma quelle sono le sue armate. Quelle sono le sue armate, ma devo dire che lui è arrivato con il suo messaggio, fatto di testimonianza, di presenza quotidiana. Credo che sia arrivato a quel miliardo e più di cattolici che sono nel mondo, ma che erano stati un po' dimenticati dal centro della Chiesa. Senta, Papa Francesco si ispira non alla teologia della liberazione, ma alla teologia del pueblo. Che differenza c'è? La teologia del popolo, del pueblo, è una teologia che riguarda l'uomo nel suo aspetto integrale, però depurato di quelle commissioni politiche, soprattutto marxiste, che aveva la teologia della liberazione. E questo significa in concreto? In concreto è soprattutto una rivalutazione della pietà popolare, della religiosità popolare. Intanto Francesco ha cambiato casa, non vive in Vaticano ma a Santa Marta, nel convitto dove stava durante il conclave. Ecco, il Papa che cambia casa, quante volte è successo? Non è mai successo di per sé. Cioè, tutti infatti mi chiedo il successore di Francesco. Dove che problemi avrà. No, ma se lui vuole tornare su al terzo piano, tutti punteranno il dito contro di lui, pensando che lui voglia riprendere i vecchi sfarci di una volta. Così. Lascia un bel problema. Questo gesto però per Francesco che significato ha? Ma era molto semplice, lui già quando l'arcivescovo aveva scelto una piccola casa, lui stava in mezzo ai poveri, quindi non poteva andare lassù, anche per un problema, lui diceva, di solitudine. Stare lassù significa solitudine. Lui però adesso è immerso in un gruppo di persone, per cui secondo me, e lì c'è anche un po' di persone che se ne approfittano della sua vicinanza, per cui sta diventando un po' un'altra piccola casta lì una dentro a Santa casta. Marta. Ecco, ma può esserci anche una paura di attentati o di avvelenamenti? Che la storia della Chiesa ha visto su... No, quello sicuramente no. No. È stata una scelta sua proprio, era di una carattere. Idiosincrasia di andare di su. Carattere, ecco. Di carattere. Ma dopo una tregua armata, adesso però lo scontro con la Curia è violentissimo. È quasi come se il Papa volesse abolirla, bombardarla, è così? Il Papa aveva avuto l'incarico, e fra l'altro l'ha avuto dei cardinali in conclave, di cambiare profondamente la Curia romana. E lui ci sta provando. L'unica cosa strana è che quello che sono riusciti a fare fino adesso, guarda caso, sono riusciti ad accorpare proprio gli organismi più piccoli, i consigli che erano nati proprio dal concilio ecumenico e rappresentavano anche di più il laicato cattolico. Mentre invece c'è molta resistenza sui vecchi di castelli della Curia romana. Quelli della finanza. E oltre a quelli della finanza, devo dire, un miglioramento c'è stato. Adesso non si sciacqua più il denaro sporco nelle acque dello Ion. L'unica cosa che certe volte fa impressione con un Papa così trasparente, che vuole trasparenza, che poi salti fuori una cosa così indecente per i personaggi che c'erano di questo secondo Vatilix che c'era stato. Senti, ma tutto quello che c'è tra lui e il popolo dei credenti, in fondo, gli dà fastidio, lo vuole abolire? No. Lui, l'unica cosa che poi lui... più che altro ha cercato di evitare le mediazioni appunto. E tutto, ed è un problema che doveva scegliere lui, o arrivare direttamente al popolo e come ha fatto, oppure passare attraverso la curia, i gruppi di potere, non l'ha voluto. E sarebbe stato in qualche modo a lui frenato, cloroformizzato, e lui andando avanti lui continua a pensare che questa è la soluzione migliore. Senta Wiedertkowski, ma Francesco come può far passare la sua idea di cristianesimo che ritorna alle origini del Vangelo, se la catena di trasmissione della sua parola, comunque fatta da vescovi, parroci, laici, che non trasmettono il suo messaggio, lì c'è il problema. Lui ha scelto un altro, sia molto più semplice, e cioè quello della testimonianza personale. Diretta. Cioè lui ha cominciato da se stesso, dal ruolo del Papa. C'è un Papa che forse a qualcuno non potrà piacere, certo. Un Papa come si comporta, però lui certo è molto più vicino al Vangelo in questo modo che non forse ripetendo certe situazioni di prima. Senta Wiedertkowski, però sono in molti fedeli che sono disorientati, increduli davanti al fuoco che Francesco appicca ovunque. Il Papa è consapevole di questo disorientamento. E d'altra parte lui non vuole fermarsi. È anche vero che c'è qualcuno, come leggevo in un bollettino di un santuario, un giovane cattolico che scriveva: siamo in un periodo di disorientamento, tutto quello che noi pensavamo e credevamo adesso si sta sgretolando. E questo è il problema, che non accettano questa proposta che fa Francesco di un nuovo modo di essere cristiani. Senta, ma la misericordia è il mantra di Francesco, questo nuovo modo passa per la misericordia, in nome della quale però tutto diventa possibile, in qualche modo relativo. C'è del relativismo nella misericordia di Francesco? C'è il rischio del relativismo, come per esempio può essere adesso con nelle confessioni o del problema adesso dei divorziati e risposati, però fondamentalmente misericordia, lui che era, diciamo, è un tema che ha rappresentato la continuità della Chiesa da Giovanni XXIII fino ad oggi, è un tema adesso che è fondamentale per dare una sorta di distinzione al cristiano di oggi. Che è minoranza e non è più maggioranza. Lanza, ma non è una misericordia, qualcosa di mieloso, qualcosa di bontà. Anzi. È qualcosa che deve distinguere il cristiano. Cioè la durezza della vita cristiana, davvero. Esatto. Ecco. Ma l'era dei principi non negoziabili, cari alla Chiesa di Ruini, è scomparsa davanti al fuoco della misericordia di Francesco o si mixa? Qui ci sono anche degli slogan, ci sono, perché sul problema, per esempio, del rispetto della vita e dell'aborto non è cambiato niente, è soltanto che c'è un atteggiamento, c'è una dottrina che è tradotta con un diverso atteggiamento pastorale. Io mi chiedo, molti hanno contestato la storia ai divorziati e agli sposati, ma la Chiesa poteva continuare come il famoso vescovo di Prato che parlava, certo, che no, di pubblici concubini? Ecco, anche il linguaggio conta, credo che abbia la sua importanza. Ma qualcuno pensa che la resistenza al fuoco di Francesco trovi una sponda in Benedetto XVI, è vero o no? Ci hanno provato, infatti Francesco ha raccontato, evidentemente gli ha raccontato Benedetto, che alcuni cardinali erano andati da lui per lamentarsi e lui in maniera sponda li ha mandati via. No, vabbè. Quindi pur nell'enorme distanza di carattere e di cultura c'è una qualche sintonia fra loro due. C'è una sintonia, lui considera un nonno saggio così, anche se c'è qualcuno attorno a Benedetto che cerca di ridare importanza a Benedetto, quasi non creando ombra a Francesco, e lì forse bisogna stare attenti, perché anche la gente non sempre capisce di vedere due persone vestite di bianco. Fa effetto. Infatti, lei crede a quello che si dice oggi dell'enorme pressione degli Stati Uniti per ottenere le dimissioni di Benedetto XVI? No, assolutamente no. Stata una scelta sua, tanto che dopo nell'ultimo libro che lui ha scritto, anzi primo papa che è riuscito a raccontare il suo pontificato a se stesso, lui ha detto che se non ci fosse stato un cambio di tempi fra giornata mondiale di giovani e le giornate di calcio, lui sarebbe durato un anno in più, quindi proprio non ce la faceva più. Ma quando Papa Ratzinger parlava del marcio che c'è nella Chiesa, si riferiva soprattutto alla pedofilia? Sicuramente sì, alla pedofilia. Ecco, ma la lotta alla pedofilia è stata quella l'eredità forte, pesante che Benedetto ha lasciato a Francesco? È una delle eredità che ha lasciato a Francesco, sì, sicuramente. Ma Francesco è sufficientemente duro su questo tema? Lui è duro, l'unica cosa è che non sono sufficientemente duri invece i vescovi, tanto che lui ha scritto tempo fa una lettera ricordandolo ai vescovi. Però fa effetto che il Papa emerito, sempre vestito di bianco, vive in Vaticano, mentre quello in carica, cioè quello vero, diciamo così, vive a Santa Marta. È solo una questione di stili personali? Beh, questi forse sono i tempi che sono cambiati, questo grande cambiamento che è avvenuto 4 anni fa, un Papa che dà le dimissioni, il primo Papa latinoamericano, 2 papi che vivono nei giardini vaticani. Ecco, tutto questo ha scompigliato un po' tutto. Io dico sempre, ho pensato che abbia anche un po' intralciato anche un po' questo clima di eternità che si respirava da sempre in Vaticano. Forse non è più così. Ma nella sua continua accensione di fuochi ovunque, Francesco sembra però non avere una visione organica della riforma della Chiesa. È vero oppure una visione sbaglio? Ma lui di principio non vuole, non la vuole. È anche abbastanza tipico della mentalità latinoamericana e anche del gesuita stesso, e quindi di seguire varie strade e di aprire tante strade. Infatti Francesco Zidarkowski, come ogni buon gesuita, si ispira al principio che il tempo è superiore allo spazio. Ma esattamente cosa significa? Appunto significa che da lui dà molta più importanza al fatto di aprire nuovi orizzonti, nuove strade, che invece di fare qualcosa di concreto immediatamente. Poi il tempo, dice, va a far maturare le cose. Cioè, per lui, insomma, è più importante avviare i processi e poi sono loro che generano nuove forze, nuove energie, nuove possibilità. Così, sì, però c'era il rischio per un certo momento che poi dopo si sfascia tutto. Che si rimanga troppo fronti aperti e nessuno si chiuda. Questo è il fatto. Riccardi, infatti, il fondatore di Sant'Egidio, dice che se gli uomini e le istituzioni non cambiano, i processi non avanzano e con loro neanche le istituzioni. Quindi c'è il pericolo che il Papa vada dovunque, ma poi il resto resta fermo. Appunto per questo il Papa ha fatto molte cose, come testimonianza ha aperto molte strade. Il problema adesso bisogna vedere come i vescovi e i parroci, certo, nelle situazioni più semplici, locali, traducono questo messaggio. A modo loro, naturalmente, certo, il rapporto anche alle situazioni concrete loro. Certo, ma dopo l'incontro con i luterani in Svezia per i 500 anni della Riforma, Bergoglio è stato accusato di svendere la dottrina cattolica. Perché? Ma perché lui ha rivalutato Lutero, ma in fin di conto l'aveva già rivalutato Giovanni Paolo II, ma Lutero era già stato rivalutato dal Concilio, dalla storia, le cose buone ci sono, e soltanto lo diceva che avesse veramente svenduto la dottrina cattolica. Ma Ma c'è davvero una sorta di obiezione di coscienza di fronte al magistero di Francesco? C'è più che altro un'obiezione di vari livelli, dottrinale da parte di alcuni cardinali, pastorale da parte di persone che non capiscono il sistema di cose e da parte anche di certa gente che non capisce questa sua maniera di proporre il Vangelo, che è più gioiosa, più liberante. È allegra. È una buona novella. Latinoamericana, appunto. Ma è curioso che sono i cardinali che l'hanno eletto che adesso lo contestano. E infatti una delle cose forse che sono avvenute è che alcuni cardinali contro sono perché pensano che lui sia andato più avanti di quello del mandato che gli avevano dato. Senta, uno dei personaggi più vicini al Papa a proposito di questo, che è il rettore dell'Università Cattolica Argentina, sente il bisogno infatti di dire: il Papa è convinto che quello che il Papa ha detto e scritto non potrà mai essere considerato un errore. Sembra una sorta di difesa preventiva, un'escusatio non petita. Così, ma allo stesso tempo fa anche capire come attorno al Papa ci siano persone che si sentono assediate e che vedono nemici dappertutto e che quindi si mettono in lancio. Sentono bisogno di difenderlo. Ma nella Chiesa molti lo sostengono e sostengono la forza di questo suo fuoco. Però altri resistono, abbiamo detto. Il Papa li aspetta o va avanti da solo? No, lui ormai credo abbia deciso che va avanti da solo. Senta, ma sente, perché sente prioritaria l'urgenza di appiccare il fuoco, di aprire tutti i fronti? Esattamente questo, perché se lui dovesse, all'inizio poteva porsi il problema di farsi seguire dagli altri, ma il problema è che forse lui rischiava di venire in qualche modo normalizzato, come è capitato agli ultimi pontefici. Ma c'è anche un vizio dell'intellettuale gesuita in questo, una sorta quasi di presunzione. No, credo che sia veramente la situazione della Chiesa. La situazione della Chiesa richiedeva questo. Io penso che non sia tanto che sia Bergoglio il grande riformatore, ma è la situazione della Chiesa che richieda una grande riforma. Ecco, quello che colpisce però è che di fronte a queste incertezze interne della Chiesa di cui stiamo parlando, fuori è tutto un peana, soprattutto da parte di chi non ha mai amato la Chiesa. E questo è il successo del gesuita Francesco? Ma il suo atteggiamento è tipico anche, mi sembra, del gesuita, di cercare di arrivare il più possibile per tutti. Lui fin dall'inizio, il suo buonasera, andava al di là della cerchia religiosa, della cerchia anche cristiana. E quindi lui voleva prendere tutti. E infatti i più entusiasti di Francesco sono proprio quelli che non lontani dalla fede. Perché come sentire un papa che parla male della casa sua, dei preti, delle suore zitellone, dei vescovi. Sono tutti contenti, in qualche modo penso di aver ragione. Sì, però nel Vangelo Gesù dice: sarete crocifissi nel mio nome. Francesco invece, stiamo dicendo, è amato dappertutto. Dovrebbe aver paura di questo trionfo laico e mediatico? Ma lui spesso dice che non è molto contento di tutto questo trionfalismo attorno a lui, e lo deve accettare perché in qualche modo devo dire che secondo me ne è rimasto anche un po' prigioniero, perché è una macchina che si autoriproduce. Esatto. Per esempio oggi, perché per difendere il lavoro non ha esitato in questi giorni a attaccare frontalmente Sky che licenze dei giornalisti. Questo è un salto di qualità nel messaggio proprio. Devo dire che lui ha portato molto avanti la dottrina sociale della Chiesa, ma certo che lui forse certe volte rischia di entrare in, come era successo anche nella Laudato Si, nella sua enciclica, di entrare in problemi che poi dopo lo spiazzano un po', perché poi dopo dovrà intervenire continuamente su mille altre cose. Certo, quanti fronti di crisi ci sono in un mondo in crisi. Esatto. È un ruolo più di sindacalista che da Papa. Non solo, per esempio quando è andato all'università lui ha fatto un discorso estremamente sociale e qualcuno notava e l'ha scritto che lui non nominava mai né Dio né Gesù né il Vangelo, così. Non lo so. No, non lo so. Senta, resta il fatto che in un mondo secolarizzato che tende a cancellare le ultime tracce del sacro, sarà l'incontro con l'Islam a ridare slancio alla Chiesa di Francesco? Sicuramente ci deve essere una convivenza con l'Islam, è fondamentale. Queste due grandi religioni, come in passato erano andate certe volte d'accordo, monoteiste arrivano dallo stesso. Esatto. E io penso che un segno fondamentale potrebbe arrivare dai fedeli dell'Islam che sono in Europa e che vivendo serenamente, tranquillamente, adeguandosi e venendo accolti e ricevuti nell'ambiente e accettando anche la cultura, la realtà europea, poi possono essere di esempio per l'Islam. Sono loro che trasformeranno, questa è una cosa fondamentale. È una cosa fondamentale, perché altrimenti c'è un Islam chiuso la modernità, chiuso l'Occidente, che è potrebbe diventare ancora più pericoloso di oggi. Ecco, San Francesco è stato il santo in realtà del dialogo profondo e spirituale con l'Islam. È questo che forse ha spinto Bergoglio a chiamarsi Francesco, in una sorta di visione profetica del suo ruolo? Devo dire che sicuramente tutto questo lui ce l'aveva presente. A dire la verità, io infatti mi chiedo come sia avvenuta la scelta in pochi secondi, perché quando lui venne eletto, il cardinale brasiliano che gli stava vicino, Humes, si è alzato, in un orecchio gli ha detto: pensa ai poveri. Allora lui, dal suo scranno fino al centro della Sistina, per dire accetto, lui in quell'attimo lì ha fatto la grande decisione di scegliere quel nome veramente incredibile. Incredibile. Ecco, le faccio un'ultima domanda, Svidrigaila. Per sistemare tutti questi fuochi accesi da Francesco, sarà necessario prima o dopo un nuovo concilio? Per qualcuno ci vorrebbe un istintore, ma più che il concilio ci vorrebbe che ci fosse una traduzione di quello che il Papa ha fatto o detto, come diceva il suo collaboratore, nella realtà concreta delle chiese locali. E questo penso, pur augurando lunga vita a Francesco, che sarà un compito grave per il suo successore. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, sms. Pubblici. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. Mix 24. Vabbè, insomma, Svidrigaila, un'analisi interessante dei 4 anni del papato, no? Beh, diciamo che è un cambio enorme di passo rispetto ai due precedenti, rispetto a Wojtyla e rispetto a Ratzinger. Dove andrà non lo so, cioè, questo è il punto più critico, perché comunque c'è una cosa interessante sul mandato che ha avuto, e se il mandato è questo è un po' trasbordato dal mandato, insomma. Io ho questa impressione, ti dico la verità, che sia più in là di comunque, quanto gesuita sudamericano, quella è la caratteristica che lo definisce meglio di tutto. Che dici, Pietrangelo? Ti farei un titolo lungo. L'obiezione obiettiva di Francesco, virgola, Papa povero. Bello. Bene, che ci fai sentire? L'obiezione obiettiva. Che ci fai sentire oggi? Eccola. I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. E allora la lacrima, il sorriso e il pensiero oggi sono entrati alla fermata Flaminio della metropolitana di Roma e senza cercare posto si sono sistemati nel giunto che collega due vagoni, giocando a se cadi cado anch'io e se ti alzi mi alzo con te. Ha chiamato Ginevra, ha voluto questo brano per Lancilotto con una dedica. Non preoccuparti per me. Andiamo oggi un po' in Italia e un po' in America, facciamo un po' di giochi. I Ti ho detto Italia, ma in realtà andiamo in un posto che si affaccia vicino all'Italia, che è la Libia, che però, ragazzi, giratela come volete, Italia è per me, almeno nel senso della politica estera. Allora, io ho letto tutti i giornali stamattina e devo dire, mi sembrava di stare su un altro pianeta, perché allora l'Italia ha un programma per fermare l'immigrazione, lo sappiamo, è stato anticipato sui giornali, dice che Tripoli è d'accordo, poi dopodiché sai, il problema è chi comanda a Tripoli? E dov'è il premier libico Sarraj in questo momento? Perché mentre i quotidiani impaginavano appunto la lieta novella e quindi la nostra infallibile strategia di politica estera, a Tripoli sono in corso furiosi combattimenti. Il generale Haftar ha dichiarato che marcerà su Tripoli per vendicare i suoi. Sarraj era in fuga. Haftar vuol dire Russia. Ma Sarraj era in fuga ieri, cioè ha fatto una conferenza stampa, alla fine un messaggio alla TV, veramente. La fine giornata, ma quando c'erano le voci addirittura che fosse caduto, la sua presenza a Roma oggi pare non venga più all'incontro internazionale per l'immigrazione in Libia. Morale della favola: noi abbiamo un programma per l'immigrazione con un governo che probabilmente non ci sarà più. Cioè, abbiamo sbagliato cavallo nel parlare con la Libia. Sì, strategia no? Complessiva. E di tutto questo oggi l'informazione generale non ha dato niente. Nei TG neanche una parola. Aggiungo. Vabbè, arriverà. Salamino. Dopo. Gli esami non finiscono mai, ma, caro Giovanni, domenica è sempre domenica. Eugenio Scalfari sale in cattedra e Matteo Renzi finalmente passa gli esami. Cocco, cocco, cocco, sentiamo un po'. Confessore, per favore, missa di Senato, prima luogo. Il fondatore di Repubblica promuove l'ex premier nel suo editoriale domenicale di ieri. Tutti i libri che gli ha dato da leggere, caro Giovanni, Renzi li ha letti e ha superato l'interrogazione. Basta PlayStation, basta MasterChef, basta Gazebo, e però no, il basta ai libri mastri di Monte dei Paschi di Siena, di Banca Etruria, è il nomina sunt nomina del nominalismo a chilometri zero con tutta la congrega toscana che Renzi, in barba al conte Paolo Gentiloni Silveri, ha piazzato nelle partecipate. Sarebbero i nuovi boiardi di Stato reclutati a un tiro di schioppo da casuccia sua. Comunque Scalfari ha costretto il ragazzo di Rignano a farsi una cultura. L'ha convocato e ha verificato quanto di cotanta bibliografia sia andata a buon fine. Parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti. Gli aveva dato da leggere la biografia del conte di Cavour di Dennis Max Smith. E Matteo, caro Giovanni, gliel'ha ripetuta come un'Ave Maria. Gli ha dato da studiare Salvemini e Labriola e Renzi glieli ha snocciolati come la tabellina del 2, perfino con le domande a saltare ha riconosciuto sia l'uno che anche l'altro. Dotti, medici e sapienti non avranno da lamentarsi dell'alunno Renzi, perché Scalfari, burbero ma buono, ha assegnato al volenteroso Matteo nuovi compiti. Innanzitutto le pagine di letteratura italiana di Francesco De Sanctis, su cui forgiare ideali politici e valori. E poi Messer Niccolò Machiavelli, ovviamente Giovan Battista Vico, perché non si sa mai che tra corsi e ricorsi storici al prossimo giro Renzi possa tornare a Palazzo Chigi. Basta PlayStation, basta MasterChef, basta Gazebo nel senso di Rai 3. E quindi Scalfari assegna tante altre letture a Renzi, ancora, che per studiare non potrà più, lo sottolinea il fondatore di Repubblica, non potrà più accelerare sulle primarie del Partito Democratico e neppure costringere il conte Gentiloni Silveri alle elezioni anticipate. E perché lo ha impegnato negli studi. Però sai cosa ha detto poi Scalfari? Riferisco perché merita di essere riferito. Allora, riferiamo perché merita di essere riferito. Dice Scalfari: forse voleva accaparrarsi la mia simpatia, ma mi ha garantito che quando ci parleremo di nuovo mi farà un resoconto dei libri letti, come prova che non mi stava prendendo in giro. riferisco perché merita di essere riferito. E riferiamo perché? Perché questo è... Bene, sì. Leggere fa bene allo spirito, sempre, non c'è dubbio. Non e così, leggendo, non può andare alle lezioni anticipate. E allora Mario, la tua bolla? Facciamo un po' di economia, anzi di finanza. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata. Allora, gente povera, furba e affamata. Furba e affamata? Furba sì, affamata non lo so, povera no di certo. Ciò qua davanti a me, volevo fare una piccola discussione con te e Pietrangelo Giovanni, il supplemento dell'economia del Corriere della Sera. Buonuscite d'oro in Italia. Alessandro Profumo, che abbiamo avuto qui l'altro giorno, 40 milioni da Unicredit, niente male. Il buon Romiti, che hai avuto però in TV in questo caso, 105, erano 24 anni di lavoro, va bene. Montezemolo, 27 milioni, mica male, parliamo di buone uscite. Cantarella, sempre dalla Fiat, 20 milioni, mica male. Geronzi, 16.7, però niente male. Insomma, queste sono le buone uscite di alcuni manager, e anche, erano qualcuno anche azionista, eccetera, italiani. Bisognerebbe parametrare tutto questo, secondo me, al risultato finale. Vi leggo due o tre cifre prese dal Wall Street Journal, in questo caso, una cosa interattiva. Per esempio, il CEO della Charter Communications ha guadagnato l'anno scorso 98 milioni di dollari. Solo che c'è un piccolo particolare: gli azionisti hanno avuto un ritorno dell'investimento del 42%. Accidente. E insomma, mi pare che ci siano, come dire, delle differenze, però non sempre, non sempre così. Per esempio, il capo della Estée Lauder, Beauty in questo caso, no? 48 milioni di dollari di in questo caso compensi, più 6,4% di ritorno per gli azionisti. Il capo della Nike, grande azienda di consumo dell'abbigliamento sportivo, Parker, guadagnato 47 milioni di dollari, più 9,4%. Che cosa vuol dire tutto questo? Che naturalmente, che ne so, Margaret Whitman, un altro, 35 milioni di dollari, più 55%. Tanto, ma hanno fatto guadagnare i loro azionisti. Molti hanno fatto guadagnare i loro azionisti. C'è poi una domanda di fondo sul quale bisogna rispondere. Tutto questo va bene? Io sono contro il salary cap, per intenderci, cioè il tetto. Però, non so, c'è qualcosa su cui interrogarsi? Olivetti diceva che il capo di un'azienda non può guadagnare più di 4 volte quello che guadagna un operaio. Era un altro mondo proprio. E tu, Pietrangelo? Vabbè, noi siamo proprio... Io, nel solco della scuola dei gesuiti dopo Papa Francesco, posso dire che i ricchi servono ai poveri. Più ricchi ci sono, più soldi ci saranno per i poveri. Questo è vero, questo è vero. Solo un'altra cosa. Secondo me la separazione tra la proprietà e la gestione, che diciamo è una cosa virtuosa, ha creato però un equivoco. Certo. I manager che fanno tutto. Tutto. Certo. Cioè, adesso Profumo sarà stato... Le public company sono quello. Profumo che va a Leonardo. Francamente, cioè, da quando in qua si è mai occupato di missili, di sistemi radar, cioè conoscere l'industria, almeno secondo me, forse la mia è una visione un po' antiquata, è molto importante. Vedremo cosa ne fanno. Vedremo. Vabbè. Certo, vedremo cosa ne faranno di Leonardo. Canzoniere! Le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto e tremola la sera fatua e fatua la sera e tremola, ma c'è nel cuore della sera, c'è sempre una piaga rossa languente. 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS, un aiutino, Pietrangelo? Sì, grande poeta italiano. Grande poeta, poeta italiano. Sufficiente? Basta così? Allora, grande poeta della modernità. Nato dove? Nato Appennini, no. Negli Appennini, vabbè, speriamo che gli Appennini indichino a sufficienza Il Mario, c'è ancora una bolla? No, più che altro un aggiornamento. Perché, no, c'ho solo un aggiornamento. Lo spread tra BTP e Bund è a quota 210 ed è abbastanza alto, devo dire. Quindi... sta crescendo. Vabbè, 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, in attesa di indovinare il canzoniere. Pubblicità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Mix 24. È stato uno dei giudici più intelligenti, più colti. Da tutti fu notato che era stato lasciato solo sostanzialmente. Noi magistrati di Torino, che ci occupavamo degli stessi settori di lavoro di Galli e di Alessandrini, eravamo scortati. Di qui una specie di rimorso al pensiero che loro sono morti anche al posto nostro. Non aveva nessuna scorta Guido Galli, giudice istruttore del Tribunale di Milano e docente universitario di criminologia, quando il 19 marzo del 1980 viene ucciso da un comando di prima linea. Di pomeriggio, appena terminata la sua lezione all'Università Statale di Milano, due uomini lo avvicinano e lo colpiscono con 3 proiettili alla schiena e alla nuca. Nel corridoio dell'università, davanti all'aula 309, viene ritrovato il suo corpo con a fianco un codice aperto. Tra il 1978 e il 1979 Guido Galli aveva condotto la prima maxi inchiesta sul terrorismo, sulle formazioni eversive e combattenti, un'inchiesta che non aveva precedenti in Italia. Solo un anno e mezzo prima, il 29 gennaio del 1979, sempre a Milano, era stato giustiziato un altro magistrato, Emilio Alessandrini. Entrambi avevano ricevuto minacce di morte e entrambi non avevano una scorta. Per i gialli della storia, dunque, una puntata dedicata al giudice Guido Galli, ucciso il 19 marzo dell'80 da un comando di prima linea. Risentiamo il canzoniere perché non ha telefonato nessuno ancora. Le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto. E tremola la sera fatua, e fatua la sera, e tremola, ma c'è nel cuore della sera, c'è sempre una piaga rossa, languente. Bene, dopo il replay, Donato da Chieti. Donato? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, è l'impetriata di Campana. Giusto. Accidenti. Bravo. Bravissimo. Che fa Chieti di bello? Io sono in pensione, quindi tutte le mattine vi seguo. Ah beh, la ringrazio allora. Speriamo di non deluderla troppo. Grazie. No, assolutamente, grazie e buongiorno. Grazie. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA dicembre 2016. La spesa sanitaria negli Stati Uniti nel periodo 1996-2013. Avrete forse saputo che negli Stati Uniti si spende per la salute il 17% del prodotto interno lordo. Sono bilioni di dollari rispetto al 7% che viene speso nel nostro paese. Da qui non solo perché la sanità nel nostro paese, nonostante tutto, è certamente accettabile, ma anche per questi conti, per queste spese, si dice che la sanità in Italia è meglio che negli Stati Uniti, globalmente considerandola. Ma gli Stati Uniti hanno certamente il vantaggio, per proprio il sistema intrinseco, per come è costruito, che è più semplice calcolare i costi e anche vedere di fare delle valutazioni generali. Allora, qui sono stati analizzati 183 fonti di dati per valutare la spesa di 155 condizioni, tra cui per esempio 29 tipi di cancro. Tra le 155 condizioni, la più costosa è stata il diabete, che è costato per il 2013 101 miliardi di dollari. seguito dalla cardiopatia ischemica con 88 miliardi di dollari e, pensate un po', al terzo posto si è classificato il banale mal di schiena con 87 miliardi di dollari. Questo ci dice alcune cose. Il diabete è una malattia cronica che quindi necessita cure continuative. La cardiopatia ischemica è altrettanto una malattia cronica con delle cure spesso tecnologicamente molto costose. Il mal di schiena però è tutt'altra cosa. È una malattia che va e viene, ma evidentemente ha una diffusività tale che va a costare un mucchio di soldi. Infine, gli americani hanno valutato anche dov'è che la spesa è aumentata più velocemente ed è a carico dei prodotti farmaceutici e la spesa per il pronto soccorso, che sono i due punti diversi che incidono sulla spesa in quel continente. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi non ha paura di dare spazio all'odio verso chi in questi anni ci ha reso peggiori. Colombre, Blatte.